riposano nella soffitta buia tra i resti di un tempo che i ricami della luce con la polvere trasformano. Libri e quaderni vecchi e un sogno rimasto a specchiarsi un tempo tra rovine di un giocattolo. Profumo di colla bianca ritrovato qui, fantasmi vecchi e nuovi si confondono. Soffitta buia tra i resti di un tempo che i ricami della luce con la polvere trasformano. Là dietro il muro il vento rapisce al silenzio sospiri confusi e voci ancora tiepide in attimo. Ma il profumo di colla bianca si è fermato qui per regalare al vento le mie maschere.